CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto qua? Buon pomeriggio. Sessione 10, c'è qualcuno? Sessione 10?